La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Siamo costretti a leggere il libro di Coelet dell'Ecclesiaste in maniera molto veloce, perché la nostra non è una vera e propria esegesi, è semplicemente una presentazione, lasciando un po' risuonare il testo. Ebbene, nell'interno di questo libro, che ormai abbiamo già imparato a conoscere, un libro pessimista, un libro che riflette un po' tutta la ricerca che non ha sbocchi, è un interrogativo in pratica che non si trasforma mai nell'esclamativo di una risposta certa. Ebbene, il libro, ora giunto al capitolo ottavo, ci offre un ritratto abbastanza frammentario, ma peraltro chiaro, della vita di corte, del potere assoluto, che allora era comune in politica. Si offrono, nell'interno delle righe che tra poco ascolteremo, alcune norme di vita sociale, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il potere incarnato dal re. Ma proprio la conclusione di questo, del primo brano che ascolteremo nel capitolo ottavo, e poi la lettura continuerà con altri temi, proprio i primi otto versetti sono, la conclusione ancora una volta tipica di Coelet, è una meditazione proprio sul senso della vita, sul senso della morte, sul senso della storia. Nessuno è in grado di fermare la morte, la vita è una battaglia dalla quale non si può mai fuggire, nella quale alla fine si soccombe. Poi sentiremo un altro brano, letto sempre nel capitolo ottavo, che è dominato invece da un altro tipo di quadretto, un quadretto abbastanza curioso, che è quello del funerale dei malvagi, un funerale solenne e tranquillo, senza che nessuno si levi a denunciare le loro malefatte. Anzi, si può quasi dire che la retorica avvolge come in un manto anche colui che per tutta l'esistenza è stato magari un criminale, purché abbia però un potere, abbia una sicurezza pubblica, sociale, tale da impedire che contro di lui cada qualche freccia. Questa esperienza offre l'occasione per una critica a una teoria, una specie di dogma che era caro al mondo sapienziale ebraico, il cosiddetto dogma della retribuzione. Cioè, secondo questa tesi, felicità e benedizione erano destinate al giusto, mentre punizione e condanna erano riservate al malvagio. In altri termini, delitto, castigo, giustizia, premio. Le cose, dice Coelet, non stanno così nella realtà, e lo sappiamo anche noi questo. E ancora una volta allora ci invita a dire, beh, cogliete le piccole gioie che incontrate nel cammino della vita durante i pochi giorni che ci sono riservati sotto il sole. E sotto il sole è una delle sue espressioni caratteristiche. Ascoltiamo dunque Coelet nel capitolo ottavo, i versetti 1-17. Chi è come il sapiente? Chi conosce il senso delle cose? La sapienza dell'uomo illumina il suo volto, mentre l'ira lo sfigura. Obbedisci alla parola del re perché l'hai giurato davanti a Dio. Non allontanarti in fretta dal suo cospetto, non ostinarti in una opinione che a lui non piaccia, perché egli può fare tutto ciò che vuole. Infatti la parola del re è sovrana. E chi gli può chiedere che cosa fai? Ma chi esegue i suoi ordini non incappa in alcun guaio. La mente del sapiente conosce il tempo e il giudizio. Infatti per ogni cosa vi è un tempo e un giudizio, perché grande è il male che grava sull'uomo. Egli ignora ciò che accadrà e non c'è chi gli possa dire come andranno le cose. Nessuno è capace di dominare il proprio soffio vitale, così da trattenerlo, né il giorno della morte è il nostro potere. Nella battaglia della vita nessuno scampa, nemmeno il male salva chi lo commette. Tutto questo ho visto, riflettendo su ogni cosa che si fa sotto il sole, quando un uomo domina su un altro uomo per fargli del male. Inoltre, ho visto i malvagi portati al sepolcro. Si andava e veniva dal luogo santo sicuri di sé, e ci si dimenticava nella città del loro modo di agire. Anche questo è vanità. Poiché non si emette subito la sentenza contro le azioni del malvagio, il cuore dell'uomo è pronto a fare il male. Per di più, il peccatore che fa il male 100 volte ha lunga vita. Tuttavia ho capito anche questo. Sarà felice chi teme Dio, proprio perché lo teme, ma non sarà felice il malvagio, e i suoi giorni non si allungheranno come un'ombra, perché egli non teme Dio. E c'è ancora un'altra vanità presente sulla terra. Ci sono giusti trattati secondo la condotta dei malvagi, e ci sono malvagi trattati secondo la condotta dei giusti. Anche questo, mi sono detto, è vanità. Io allora esalto l'allegria, perché per l'uomo non c'è altro bene sotto il sole se non mangiare, bere e stare allegro. È questa la sola cosa che gli faccia buona compagnia nella sua fatica, nei giorni di vita contati che Dio gli concede sotto il sole. E come mi sono applicato a riflettere sulla sapienza e a considerare il lavoro che si fa sulla terra, per cui l'uomo non conosce riposo né di giorno né di notte, allora ho considerato anche tutte le opere di Dio e mi sono reso conto che l'uomo non può arrivare a scoprire il senso di tutto quanto avviene sotto il sole. Per quanto si affatichi a cercare, nulla scoprirà. E anche se il sapiente dicesse di conoscerlo, in realtà non potrebbe scoprirlo. Ci sono 7 passi, a dire il vero, in questo libro che è all'insegna del nero, che è all'insegna della negazione. Ci sono 7 passi e quello che c'è nel capitolo 8, nel versetto 15, è sicuramente uno di questi più significativi, in cui sembrerebbe che l'autore abbia quasi come uno squarcio di luce nel suo cielo plumbeo. Esalto l'allegria, avete sentito poco fa, perché per l'uomo non c'è altro bene sotto il sole se non mangiare, bere e stare allegro. È questa la sola cosa che gli faccia buona compagnia nella sua fatica. Ebbene, tutto questo però non ci deve far dimenticare che non è la soluzione. Per Coelet, per l'Ecclesiaste, la vita continua ad essere soltanto quell'amarezza che ben sappiamo. Tant'è vero che proprio in questo versetto, il versetto in cui invita ad essere allegro, aggiunge: questa è la sola cosa che faccia buona compagnia nella fatica, nei giorni di vita contati che Dio ci concede sotto il sole. Ecco, la conclusione è perciò sempre quella che l'elemento fondamentale rimane indubitabilmente la tristezza, la fatica, l'insoddisfazione. E gli ultimissimi versetti del capitolo 8 preparano un brano che poi leggeremo nella nostra prossima lettura del Coelet. Dal capitolo 8 al versetto 16 in avanti c'è una specie di riflessione sul non sapere. È il risultato amaro della ricerca di un intellettuale, come era Coelet, di un sapiente. Dopo aver studiato tutto l'agire di Dio nella storia dell'universo, dice Coelet, l'uomo si accorge di non potervi trovare un senso decente, un senso comprensibile, per quanto si affatichi a ricercarlo. Ritorna ancora quella sua visione pessimistica, quella sua lettura di incomprensibilità di tutto l'essere che ci circonda. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.